invece quando è morto mia madre, grazie a Dio, è ancora viva, perciò ancora non ho questa grande cosa come te, fresco, però c'è mia moglie, deve andare. È un peccato, mi succede, quindi per me sono stati secondi genitori e quindi giustamente bisogna fare il dovere anche lì. Tutto qua, speriamo che non continui a piovere, che aspetta, ha fatto un'acqua stamattina, non sono uscito a andare al lavoro, allucinante. Ok, stavo parlando con Babbo, allora sai che è molto probabile che a tuo padre lo conosceva, mio padre, perché Babbo è stato tutta la gioventù passata a Porto Torres, abitava a Porto Torres, Babbo. Ah, beh, ci abitava a Porto Torres, era conosciutissimo mio padre. Mio padre c'aveva un negozio di autoricambi in via Cavour e due officine, una a Porto Torres e una a Canaglia. Capito? E poi lavorava alla Butangas, era responsabile di zona della Butangas a Porto Torres. Immaginate che Salvatore Busia e Pasqualino Mameli, buonanima, erano dipendenti di Babbo, quindi oggi sono i più grandi autoricambisti della provincia di Sassari, anche se Busia ha avuto sto colpo un po' brutto, comunque spero che si riprenda perché ancora l'azienda è in piedi, non è chiusa del tutto, spero che riesca a sanare e rimettere tutto a posto. Quella gente, conoscevo della Butangas, hai capito, non Papo lavorava sempre per lo che dello Stato, a Porto Torres da ragazzo, ma poi in classe 1933, classe, e ha lavorato per tanti anni, fin quando si è sposato, poi è venuto qui ad abitare. Chi è? Buongiorno, Claudio Sparviero in compagnia di Gianni Capridue, buongiorno e buona domenica. Guarda, noi non eravamo molto lontani dalla stazione, quindi, perciò mia madre c'è ancora la casa lì e un'altra ce l'ha anche lì nella zona di Alghero. Cosa stavo dicendo? Quindi lavorava con Gigi Urtis, tuo padre, grande personaggio, molto amico di mio padre, insomma. Alla fin fine ci conosciamo tutti, quindi. Avanti Marco, da dove stai trasmettendo? Ho capito, siete già sentito parlare con Gianni, avanti Gianni. Ok, sì, Marco, buongiorno, io mi chiamo paesano perché abita già l'azienda in territorio nostro. È così. Agricola, immagino, perché non penso che sia stato in macchina e se con la barra agricola, ma ok, perfetto, hai capito, ma è proprio lì che aveva fatto un giro, guarda, di amicizia, tipo una crespa di Porto Torres che uscivano e hai capito, sempre educatamente che mi hanno passato la gioventù. Poi stavo lavorando allora era casellante via le ferrovie perché la sorella era titolare anche della cantoniera e quindi mi spiegava tutto quanto come la Porto Torres all'epoca e così e purtroppo hai capito sono i tempi che furono, ma no, forse non è attore così, lo conosco abbastanza bene, per esempio ti posso dire che la nipote Silvia Bugia, la mia nipote. Ah, in gamba. E io manco tanti anni da Porto Torres. Però sono rimasto, insomma, conosco un po' tutti, dai, non c'è problema. Conosco un po' tutti Gianni. Tanti anni, sono più di 30 anni qua a Sassari, quindi va bene così. Lo so. Ok, ah sì, col trattore Marco. Mi ascolti? me sì. Ok, perfetto, allora anch'io ti ascolto, non c'è problema. Sto usando il 430 della Kenwood, che era un pochino fermo perché stavo sempre usando il 44, il 440 e poi quello di Sandro. Lo sto tenendo ancora sotto controllo perché c'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa che non mi convince sui picchi di modulazione. Sono troppo alti. Vedrò di portare anche quello da Carlo, farmi fare una taratura con l'oscillatore. E sicuramente c'è ancora qualche trimmer da regolare che mi è sfuggito. Vediamo un pochino di farlo vedere a Carlo. Riprendi Gianni. Sì, sì, fai pure, non c'è problema. Attenzione Italia, che costa Zanardi. Buongiorno, Fabio. Buongiorno. Buongiorno, amico, c'è buona domenica anche per te, famiglia. Buongiorno. Dal nord di Sardegna, Claudio Sparviero che ti saluta, buongiorno. Grazie. facile, ma non era neanche difficile, però non era acquisti, quindi erano tre buste, si sceglieva una busta, il dirigente di commissione scriveva il compito da fare la lavagna e si sviluppava sulla carta. Un secondo al telefono. Buongiorno, apre 2 Claudio. Ciao Gianni, buongiorno. Claudio. Telefono un attimo Claudio giù. Ah ok, vabbè. Allora già riprenderà subito. E beh già come va? Calmatissimi, ho accenno poco fa, stavo soffiando e ha risposto Claudio. Ah, ho capito. Mi senti bene? Se no metto il microfono un po', No, no, va benissimo, ti sento alla grande, ti sento. Al 100% e qui non c'è tutto bene. Ok, anch'io ti sento bene, molto bene, va bene così, di lusso. Praticamente tu cosa avevi fatto? Avevi cambiato il microfono, così confermi? No, io ho cambiato tutto, giusto usando tutta la stazione qui ho cambiato, c'ho anche gli altri. Sto usando adesso un ICOM 728 da professionale al MOD e ho cambiato il microfono, ci avevo il microfono manuale e ho montato il microfono da tavolo SM20, pensa che l'ho pagato a seconda mano 190 euro, nuovo dicono che costa 180, però è notata che l'ho pagato con lì, perché sono convinto che è il primo tipo di microfono, perché i microfoni molte volte si rifanno, io volevo avere pagato, però una roba capito delle prime cose che sia originale. Ok già, no ma va benissimo, io ti sento molto bene, non ci sono problemi, ho capito. ICOM 728, cos'è una KF? Esattamente una KF che io adesso l'avevo comprato, io ogni anno buscavo il catalogo della Marcucci nel 94, sfogliandolo mi si è puntato l'occhio su questo apparecchio e aspetto un attimo di ricordo di soldi quanto costavo, ma che... E allora deve essere un bel apparecchio, deve essere. Molto bene, sono contento per te. Va benissimo così. E adesso ti sento bene, era grande proprio. Di lusso. Prima facevo fatica a sentirti, ma adesso io ti sento bene, non ci sono problemi. Sono rientrato, buongiorno Giulio. Ciao qua. Mi sto parlando con Gianna, va bene, vado insieme, che già lo sai che c'è Gianni. Va avanti qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno, chi ha salutato? No, ero al telefono, mi hanno chiamato dal lavoro per vedere chi era reperibile oggi. Va bene, buongiorno Giulio, buongiorno a chi ha salutato, avanti. Ciao Claudio. Oh Giuseppe, buongiorno, buona domenica anche a te. Avanti Gianni. Buongiorno anche a Giuseppe, anche se non lo ascolto, non so. Capito in che condizione sta uscendo, pure se rimarrà mobile, forse che io non possa ascoltarlo e che non avevo neanche io, l'ho tutto lì, come stavo dicendo giù e niente, poi l'ho trovato su internet questa roba e me lo sono comprato, te lo devo avere perché il prezzo è accessibile e poi ho tutti i punti di accessori quanto costano, quindi il microfono lo pago così perché so che in quell'epoca, perché molte volte anche le cose le rifanno, non sono più come quelle di una volta. E poi l'anno scorso l'ho comprato, nello stesso catalogo c'era un vecchio pistola della IAM, le ferre, che anche di quello ha affascinato, quello l'ho comprato l'anno scorso e quindi mi accontento, giusto per avere, di prendere il nuovo sul cambio. Ok Gianni, Ciao Giuseppe, ben entrato. È da Giulio da questa parte. Stavo dicendo, no, adesso ripeto, ti sento bene, proprio bene, addirittura non c'è bisogno di aumentare troppo il volume per ascoltarti, mentre prima anche col volume alto facevo fatica ad ascoltarti. Meglio così, sono contento per te. Avanti Giuseppe. Ciao, amico di Borotone, c'è Ricupi qua, Leocino, sono là, qua c'è 351, allora riprendo ancora io, Leoncino. Ok, avanti qua. Ciao Leoncino, non so se stai chiudendo, poi ce lo dirai eventualmente. Avanti qua. No, Giuseppe sicuramente è arrivato a piazza. Noi a Pordotone sei Gianni, Giuseppe, a Muros, eh? È a Muros, sì, 728 o giù, è un vecchio HF della ICOM. Va benino, non ci sono problemi. Ok, stavo dicendo, ma con la luce si schiarisce quel bordo, Giulio? No, secondo me si colora di più scuro, capito? E cioè si diventa più scuro come l'altro, guarda. E ma già si sta diventando più scuro. Si vede solo la bordatura, il resto è perfetto. Beh, già sono in ferie dalla prossima settimana, quindi ci vediamo per quella questione là e poi stavo pensando questo palchetto che ti ho detto per non avere le radio così accatastrate, cosa ne dici? Sarebbe più completo qua, anche per fare la stessa cosa che hai fatto nel primo, lo fai anche nel secondo, quattro piedini e via. E hai anche più spazio, chiaramente. Diciamo che sarebbe più completo. Sarebbe. Non so se si trova lo stesso legno ancora, per cui è frassino quello primo che abbiamo fatto, ma al limite si ripiega su un altro legno, poi eventualmente si colorerà, si cercherà di colorarlo. Perché da legno a legno, quando tu usi la stessa vernice, c'è sempre una differenza di colore, capito? Ma ecco qual è il problema. Non so se in questo momento si trova il frassino, ma no, è un legno durissimo e molto molto pregiato e dunque non è sempre che si trova, perché costa, capito? Costa abbastanza. Tutto lì, riprendi. E vediamo, è un'alternativa, chiamata la Truffi, tanto questo è il tuo progetto, quindi continui a progettare tu e a fare tu. L'hanno visto, bellissimo, veramente. C'è molto spazio, già hai visto come sono organizzato, l'unico handicap, no, già ci arrivo, però è la finestra, mi devo allungare un pochino, perché sai, avendo la L in mezzo mi recupera quei 50 centimetri, e quindi vabbè, già so grongo, già ci arrivo con la mano a aprire la finestra, e poi adesso mi devo cambiare la commutazione delle antenne a CP, mi viene molto in difficoltà, devo spostare i microfoni per andare a commutare le antenne, devo spostare il commutatore, infatti me lo farò stasera, me lo sposto un po' più avanti, magari dietro la base, quella che c'è della prima che hai fatto, perché giustamente lì prima passavo, ci arrivavo, adesso essendoci la L è chiuso, quindi mi viene un po' in difficoltà. Ok, comunque già ne vogliamo bene, dai. Ottimo lavoro, ottimo tutto, benissimo. Avanti Capri. E invece io ho buttato ieri una bella anta di un armadio, ma bella, perché 2 metri di lunghezza, e c'è ancora, non dico molto, una serie di meno una cinquantina, poi 60 di altezza, e non è fatto a forte, no, ma è proprio legno. Io l'ho messa sopra il tavolo e ci sta tutta la stazione, dico, qualche altra parata, una cosa bellissima, gli ho messo i fogli per appendere tutti i microfoni manuali e mi passa che a parte, poi sono che mi decido giù, anche io vengo in falegnameria e faccio come Claudio, e però io, ve lo vedo, io come in casa non ho tutto questo rapporto, Claudio c'è la sua camera, io mi devo adattare qui, diciamo, e mi va bene così, però c'è una cosa, un domani anche come quella di Claudio, per esempio, sia un'altra che così, ma la mi fa anche piacere. Vabbè, quando vuoi, già sai dove trovarmi, te l'avevo data l'indicazione. Poi al limite mi telefono, mi sembra che hai il mio numero, e poi ti guiderò sino al punto dove mi trovo. E stavo dicendo, Classi, che praticamente hai tutto sistemato, tutte le apparecchiature adesso, ma non ti è sufficiente perché lo spazio, perché l'altro piano non vuoi, perché lo spazio non ti è ancora sufficiente. Vabbè, con tutte le apparecchiature vai tu, caspita. Potresti vendere addirittura, cioè nel senso che puoi piazzare un negozio con quella stazione straordinaria, bellissima. Avanti qua. Vabbè, ma il problema c'è sempre tu, è giù. Grazie alla tua iniziativa, al tuo progetto, abbiamo sistemato come Dio comanda, perché è veramente molto bello. Ha fatto una cosa, un capolavoro, Gianni, un capolavoro ha fatto Giulio, veramente. Ha assemblato, praticamente ha fatto nascere due basi uguali ad L, una è 2,50 m, l'altra è 1,50 m, quindi immaginate che cosa ho. Fatte e costruite proprio da zero da lui, e se tu le vedi sono due basi spettacolari, veramente è un grande, ha delle iniziative che non c'è oro a pagarlo, è veramente delle iniziative favolose, con dei piedi che sono poi uno spettacolo, queste giunture che non vedi se ti metti con la lente ingrandimento, non le vedi, proprio fatte da lui, da zero, progettate da lui proprio, ho detto Giù, fai tu, questo è il mio spazio, ce la facciamo così e così, fai fare a me, è uscito veramente un capolavoro. No, Giù, perché lo spazio adesso c'è, sì, c'è anche il computer, sta benissimo, è tutto regolato, solo che i baracchini sono uno sopra l'altro, quindi in base che ci stanno sotto l'R piano, che sono già tre le basi, quella che hai visto tu più vengono altre due, vanno sotto e i baracchini poi vanno sopra la base con i microfoni che ci stanno benissimo, sono tutti allineati, tutto veramente ad hoc. La cassettiera l'ho spostata dall'altra parte, quindi praticamente ci cammino con la sedia, quella che hai visto, con le ruote, mi giro tranquillamente. C'è veramente tanto spazio, era l'unica cosa che si doveva fare così a pelle, altrimenti non hai tutto sotto controllo, capito? Non hai sotto controllo. Ripeto, l'unica cosa, mi devo spostare la commutazione delle antenne perché all'angolo della scrivania quei 60 cm mi devo sporgere per andare a commutare e cominciare a rompermi le scatole, ma è una fesseria. Lo stacco dal muro il commutatore d'antenna e lo sposto leggermente più interno in modo che mi venga bene a commutare. Hai capito Gianni? È un grande capolavoro, un grande maestro Giulio Rollaro, veramente alla grande. Ha fatto una cosa, ho anche fatto le foto e tra un po' le metterò anche nel mio sito, quello della sezione Aree di Sassari, perché devo cambiare la foto che quella lì è vecchia. A te Gianni. Non posso immaginare, però ma capito, si vede proprio che la persona che si è fatto il tuo Giulio, hai capito, io so un grande maestro, hai capito, perché ce ne sono tanti tipi di parenti della mia, io ho avuto il modo di bagnare il viso e se invece ce ne sono che proprio sono geni, hai capito, e ho battagliato quando papà ha fatto la casa nuova, sono venuti questi e non erano tanto, perché poi non ho portato io un falegname che conoscevo da quando ero piccolo, e è rimasto contento bravo, infatti si sono diviso in tanti gradini, io penso che sia l'ultimo gradino superiore di venire giù. È ok da. E tu pensa qua, che stavo pensando io addirittura, ma siccome tu lo spazio ce l'hai già per il lavoro, per eventuali lavoretti che devi fare alla scrivania, se no addirittura stavo pensando, no, faccio quasi quasi, le faccio una sorpresa a Claudio, le creo sotto quel ripiano, l'ultimo che è stato fatto, un ripiano. piano è traibile, è un modo per poterci lavorare, saldare, ma non se ne fa niente, perché intanto ha la scrivania, dunque va bene così. È per quello che ti serve adesso a te la commutazione per spostarsi sulla scrivania, in modo che quando fai qualche lavoretto hai anche l'antenna, così per quello qua. Sì, sì, infatti quella piccolina che c'era l'ho lasciata perché lo spazio c'è, non mi crea problemi, l'ho messa dove era inizialmente il computer, lì c'è il tester, ho portato l'alimentazione con l'alimentatore, c'è un alimentatore da 20 ampere per fare i lavoretti, ho già portato il cavo dell'antenna dal commutatore a quella scrivania piccolina, c'è la lampada, insomma una base per fare solo dei lavoretti, controllare eccetera eccetera, e però come stai dicendo tu la commutazione è molto lontana e quindi devo avvicinarmela per poter commutare poi l'antenna, un neutro insomma del commutatore commutato su quell'altra scrivania lì per fare dei lavori, tutto lì. No, ma va benissimo, addirittura passo anche nonostante ci sia l'unità del computer, posso passare dietro, cavi zero per terra, Giulio, pensavo di canalizzarli, invece zero perché ho sfruttato, siccome la base è abbastanza larga, quella che hai fatto, ho sfruttato la canala della base facendo passare i cavi, sia quelli di alimentazione che quelli delle antenne, sulla base stessa, dietro le radio, non si vede niente, non c'è un cavo per terra, l'unico cavo che si vede è quello del computer, dell'alimentazione del computer, ma anche quello lì adesso trovo una sistemazione e lo tolgo da così com'è perché non mi piace. No, giù, non ce n'è, sono venuti a vederlo e era proprio il lavoro che io volevo per questa stanza e niente, mi ho appeso tre cartine, hai visto le foto, hai visto tutto, gli orologi, i diplomi, insomma c'è tutto, non manca niente, è proprio una stanza mia personale, Giulietta. Sì, lo so, va benissimo, va. Lì tu sei tranquillo, di lusso, veramente, non ci sono problemi. Una stanza tutta adibita a Gianni, tutta adibita a lui personalmente, per come sta la radio, bellissima veramente, di lusso. E vabbè, sono contento per te e sono contento che io ti ho fatto un buon lavoro. Stavo dicendo, io volevo fare sotto quel piano un altro ripiano sottile di un paio di centimetri che veniva estratto fuori, no, tolto fuori per poter saldare, ma poi ho pensato, ma non se ne fa niente perché lui mi aveva detto che ha la scrivania e quella le serve poi per fare i lavori, eventuali lavori, infatti hai ragione, non serve per niente, cioè la scrivania, anche per riempire quell'altro pezzo di parete, con la scrivania ci sta molto bene, e poi la scrivania è anche più comoda perché ci sono i cassettini, insomma un po' tutto ed è un'altra comodità quella sicuramente aggiunta. Va bene così, dai. Riprendi Gianni? Infatti no, ma quando uno la roba sarà le 6, capito, la puoi fare come vuole lui, non è che vai in un negozio, compri e capito, ti devi sistemare la roba, invece no, la roba vuol fatta proprio come voglio questa cosa qui, per mettere questa cosa qui, per starti questa cosa qui, diciamo, io giù ho già, non ho progettato niente, io sono andato da Giulio e è venuto qua, si è preso le misure e mi ha detto guarda, se vuoi una cosa fatta bene per me così, l'ho detto per te così, fai tu, e non ho fatto altro che fare lui, perché questa è una base che praticamente è cernierata a muro in modo che nel caso dovessi fare qualche lavoro non tolgo solo le radio e praticamente entro dentro i piedi e abbasso il piano cosiddetto, capito? Questo piano. Mentre la L invece l'ha fatta in modo diverso, ho giuntata con l'altra base e aggiunti due piedi in testata. Ha fatto un capolavoro, veramente. Non sono contento Giulio, sono contentissimo perché l'ho visto come l'hai fatto, quindi è un tuo progetto, aveva del materiale esistente, falegnameria, e quindi ha assemblato, fatto e Gianni ravvedere perché non vedi un non vedi niente. Dice, ma questa base da cosa è nata? È nata da delle tavole che aveva del legname che aveva lui in falegnameria, assemblato, fatto, bordato, poi c'è un bordo che è la fine del mondo, veramente un grandissimo lavoro, non un grande, un grandissimo lavoro, e spero che chi l'ha visto e mi ha detto veramente una cosa fatta bene, ordinata e pulita, sia un come si dice, un per farne altre, insomma, ecco, perché se Giulio grazie a Dio il lavoro già ne ha, perché sta facendo un sacco di cose, ma a me mi ha accontentato già due volte, mi ha messo in mezzo e anzi non pensavo che lo facesse così in fretta, ma è venuto, ha capito che ero campato e quindi ha messo in mezzo e me l'ha fatto veramente in grande velocità, e non avrò mai spazio e opportunità per ringraziarlo. Vai Giulietto. Ok, va bene così, non è il caso di ringraziare, hai fatto quello, hai voluto quello, va bene così, la stanza è perfetta, lo spazio è tutto riservato a te, nessuno ci mette le mani, nemmeno per sfogare, su poco, perché tu magari non lo permetti, visto e considerato che sono tutte le radio, di conseguenza sei contento tu, va bene a tutti, anche se magari qualcuno un domani possa dire ma questo avessi potuto fare, a te va bene così e non ci sono problemi, anche perché non credo che nessuno abbia niente da dire, ci mancherebbe altro, sarebbe un'ipocrita andare a dire che qualcosa che non va, che non è ordinata o che già non vedi un filo per terra, tutto nascosto, sai cosa vuol dire nascosto? Con tutte le apparecchiature che ha Claudio, e ne ha tantissime, tutte apparecchiature professionali, tutte ordinate, tutte nuove di zecca, sai cosa vuol dire nuove di zecca? Ogni apparecchio ha il suo microfono da tavolo, che è la cosa più bella, sai qual è? C'è l'apparecchiatura dietro e davanti il suo microfono, dunque c'è uno spazio anche giusto per mettere le cose, anzi giusto abbondante di per mettere il microfono al tavolo, sicché lui in qualsiasi momento non fa altro che accendere l'alimentatore, si accende tutto, si illumina tutto contemporaneamente se vuole, e di conseguenza è uno spettacolo vedere tutte le luci, tutto, insomma sembra la stazione della Rai o già. E così vuole, adesso sono la riparatura, lo vuole dire, perché così quei apparecchi che ti hai mandato giù che li espugni, capito, e ci fai quando vuoi sopra, ma io l'avrei voluta proprio per avvenire, però la stanza qui è quella che mi sono accampato qui, mi sono, e non ne ho altre, non ne ho altre, io proprio devo andare e non pago affitto, capito, mi va bene così, però ma prendo la butta un'altra casa a disposizione, senz'altro avrei fatto la stessa cosa. Grazie a me. Ah. Sì, lasciate un attimo il bianco, io sento qualcuno sotto che parla, forse lontano da quassù. Sicuramente c'è qualcuno sotto qua in questo canale, spero di non disturbare. Gianni, io mi pare che Giulio era già venuto giù nell'altra casa e non mi sentivo realizzato, perché le radio praticamente sì c'erano, ma ce n'erano meno della metà di quelle che ci sono adesso, erano tutte dentro gli armadi, ed è rimasta contenta anche mia moglie che ho svuotato l'armadio che gli serviva per mettere piumoni, per mettere roba, perché mi ero accaparrato proprio il piano di un armadio per poter, e ancora che Giulio l'ha visto, io ho un armadio qua in questa stanza addirittura, quindi figurati un po' dove c'è, dove ho dentro la roba da lavoro e più c'ho un piano sopra che ancora ci sono pezzi, pezzetti, strumenti e balle varie, che però non mi servono ad esporli, ecco, a me non piace esporre la roba che poi non uso, e quello che c'è qua è tutto in uso e va bene così. conosco ancora qualche baracchino che devo vedere dove sistemarlo, però lo spazio me l'ho tutto utilizzato e quindi va bene. La base è quella grande da 2,50 m, è solo apparecchiature amatoriali, solo base in utilizzo amatoriale, mentre quella da 1,50 m è, come ha visto Giulio, è solo baracchini in uso naturalmente, perché li uso, anche ieri stavo usando il Zodiac, l'altro giorno stavo usando l'HB23, ho anche il 2 President veicolari, un altro grande, insomma va bene così, va benissimo, sono contentissimo, almeno ho risolto il problema che aspettavo da anni, insomma. Però non c'era la possibilità di potermi organizzare, volevo fare un trattamento di cartongesso quando ero nell'altra casa e poi sono rimasto un po' così, il cartongesso non è che mi piaccia molto. Poi è capitata questa occasione della casa di mia suocera e quindi finalmente siamo a cavallo. Ok, sì, giù, poi ci vediamo e vediamo un pochino. Intanto io mi segno bene la misura di quell'altra base e vediamo come organizzarci, di quell'altro soppalchino. Vediamo come organizzarci, tanto lo facciamo la stessa misura di quello là in modo che non mi porti via molto spazio e sarà sempre il problema della finestra. Sarà sempre il problema della finestra, comunque mi organizzerò, insomma, per l'estate, per l'inverno adesso è aperto, perché magari fumo qualche sigaretta qua nella stanza, finalmente non rompo le scatole nessuno, però poi per l'estate mi organizzo e vediamo un pochino, tanto ci andrà anche un piccolissimo da 5.000 sicuramente, condizionatore per l'estate in questa stanza, per tenere sempre le radio fresche, perché quando iniziano a ventilare l'estate arriviamo a 23-24 gradi in questa stanza. Ok, a te Giulio. Sì, in effetti quello già è vero, quando sono accese tutte è chiaro che a un certo momento mandano calore, lo so, quello è vero, e dunque un condizionatore già ci sarebbe bene, completerebbe ancora di più il tuo angolo del grande Ubi, perché l'elettronica è la radio un grande Ubi, secondo me non ci sono dubbi, altro che starsene buttato al mare o in giro per altri motivi o al bocciuffio da giocare a bocce, la radio sicuramente dà grandi soddisfazioni, non ci sono dubbi, soprattutto quando uno si ritrova in una stazione come quella che hai tu a quei livelli lì, oltretutto patentato eccetera eccetera, va bene così, meglio così, sono contento. Stavo dicendo, quell'armadio che c'è lì, quell'armadio non devo buttare mai via dalla stanza perché è comodissimo, è bellissimo, tanto è nuovo, è bellissimo, è un peccato lasciarlo perdere o eliminarlo, è veramente un peccato. E poi completa l'arredamento, completa della stanza che poi a te ti serve, poi tra l'altro mi stai dicendo che lo usi per i tuoi abiti da lavoro, sì, che più comodo così, hai praticamente una stanza tutta personalizzata o qua, di conseguenza va bene così. Bene, bene, bene, bene. Riprendi Gianni. È ok, riprendo, andrà bene mela. L'ultimo per l'altro qua, facciamo che ti dica altro. E che più ne ha più ne metta, che più ne ha più ne metta, no, io qui mi ho fatto un po' di ordine, mi va bene così, perché anche io qua ce l'avevo infatti, c'è una vecchia, no, non una vecchia, una vecchia nuova, una vecchia, non ne avevamo più, ci ho messo lì tutti i colettoni, le falcane, ho una cosa di sopra, e non la vedevo tanto bene, con io con questa roba che ho messo, con questa anda che ho fatto, sono tutte ordinate, qui le vedo, tutte allineate, capito? E se non è una roba come, per carità, come quella che ti ha fatto Giulio, però mi accontento. Scappa. No, vabbè, non è che non si disprezza mai, anch'io se tu vai a guardare il vecchio sito dove ci sono dell'Ari, dove io ho la foto dell'altra casa, purtroppo avevo uno spazio molto ristretto e quindi era nata una cosa provvisoria, ben fatta, ma me l'ho arrangiato io così provvisoriamente, infatti Giulio, Giulio, ne parlavo sempre, però lui diceva aspetta, magari c'hai più porte o più qui o là, perché se lì era da fare incasso tutto, e poi veniva, era un problema praticamente adeguarla a questa stanza. E quindi aspettando poi abbiamo dato il passo a Giulio e mi ha realizzato questo grande capolavoro. Però se tu vai a vedere la vecchia stazione, le radio sono sempre quelle, anzi ce ne sono più adesso che prima, perché ti ripeto, lo spazio era molto ma molto inferiore, però diciamo che era una cosa abbastanza ordinata, qualche cavo lì si vedeva perché non c'era lo spazio per far passare i cavi come sono qua, qui come ti ha detto Giulio non c'è un cavo per terra, perché mia moglie passa l'aspirapolvere, la scopa, la va per terra, quindi non voglio assolutamente che prenda scosse o mi faccia danno a me, alle radio, e quindi ho fatto tutto un sistema di cavi che sono praticamente sulla base all'interno, all'esterno diciamo delle radio, e quindi non si vede assolutamente niente. Va bene così, no? Il lavoro vuole fatto, poi c'ho salvavita sotto generale, ho 100-120 ampere di alimentazione, perciò posso alimentare tranquillamente tutte le radio con comodità, senza problemi di amperaggio, di niente. Tra l'altro quando sono venuto qua per gli amplificatori, anziché 3 kW o 4 kW e mezzo, ho fatto aumentare di 1 kW e mezzo il contatore, quindi ho 4 kW e mezzo, non ho problemi di alimentazione, di niente. Adesso Giulia, stavo pensando proprio su quella scrivania che stavi dicendo tu, visto che c'è, ci sono 20 ampere di alimentazione per una radio, più radio, di prova naturalmente, quella è una base di prova. Il cavo d'antenna l'ho già passato, eccetera, questa è la commutazione, me la farò stasera. Stavo pensando a comprare un carico fittizio, però non so dove comprarlo, per poter lavorare così senza far danno alle radio, senza RF. Dove, ma non ce n'è qua se essere carico fittizio? Non ce n'è, no, qua, non credo più, guarda, non credo più, a meno che non ha qualcosa che usare, ma difficilmente ce l'hanno difficilmente. E poi ho costruito un PL, una resistenza da 50 ohm e una lampadina e te la costruisci un carico fittizio, non è un problema. Cioè, metti un PL, ci attacchi con una saldatura molto corta, una resistenza da 50 ohm e una lampadinetta da 12 volt, quando schiacci la potenza la lampadina si accende. Cioè, se no te lo ordini direttamente da fuori, un carico fittizio serio, professionale, e non se ne parla più. Comunque è fattibilissimo, non è un problema, Sì, stavo pensando anch'io, però sai qual è il problema, Giù, che usando magari grosse potenze per fare prove, si rompe la resistenza, si brucia, qui e là, devi stare cambiando, facendo. E sono già quelli pronti che hanno un carico fittizio sino a 100 watt. E quindi dai, è meglio comprarlo. Bisogna che martedì faccio un salto da Fusaro a vedere se c'è qualcosa, se no faccio una ricerca su internet e vediamo se c'è qualche azienda che ha qualche carico fittizio buono. E perché devo fare qui? Quella scrivania deve essere tipo laboratorio, capito? C'è tutta l'attrezzatura proprio per fare, non ne faccio nessuno lavoretti, però capita, come è capitato quello di Sandro, che era un po' in difficoltà con questa radio, l'ho sistemata, allineata, e come avere del tempo vi faccio una scrivania proprio tipo laboratorio, ecco. Mi diceva Gianni, un oscillatore, qualcosa del genere, insomma, per farmi i lavoretti giusti miei, ecco, adesso c'è una radio, devo portare a tarare. Ho scoperto l'altro giorno che è leggermente spostata, e quindi devo andare da Carlo a Chiaramonti, che lui ce l'ha, e me la faccio fare da lui, così porto anche quella di Sandro, le faccio fare un check-up generale per vedere se le tarature che ho fatto io sono tutte a posto. Adesso vediamo, perché tra l'altro non costa neanche molto il carico fittizio, non mi ricordo, ma non credo che sia uno strumento che costi un bel sopravvissuti. Ok. Vai Gianni, che oscillatore c'hai tu? Di che marca è? Della Proxel, no? Su questo pallone 50-60 metri di cavo avevamo messo, ricordo, 10-58 che lo accostava a una fesseria, e sollevato questo pallone in aria con la lenza, lo mantenevamo fermo per non camminare, se non si metteva a camminare lo mantenevamo fermo, e avevamo fatto la buona Carlo Tizzano, Bartolomeo, Francesco TM, era mi sempre facevamo queste fesserie che poi risultavano anche così delle prove tecniche di trasmissione, no? Perché la legge di Ohm parlava appunto dell'altezza soprattutto di antenne e volanti, e noi non capivamo mai come un aereo avendo un'altezza così superiore, diciamo, sono aerei che volano a grandissime altezze, potessero comunicare nell'aria con la terra, e quindi avevamo provato a farlo anche noi, e caspita, era una cosa allucinante veramente, era una cosa spaventosa. Già ne ricevevi, e senza un filo di QRM, ricevevi proprio ciò che l'aria ti dava, ciò che il segnale c'era in altezza, perché tieni conto, eravamo già, adesso mi ricordo, avevamo fatto questo pallone, che era, se vi ricordate, di quegli affari che saltavano, no? Quindi che c'era la maneccia e i bambini saltavano, e noi l'avevamo modificato e fatto per salire in aria, insomma l'avevamo riempito di ossigeno, e quindi partiva in aria questa cosa allucinante, facevamo questa fesseria, che poi risultata, ripeto, una prova tecnica per provare a vedere cosa ne tiravamo fuori. Avanti Gianni. è quella che aveva proprio Bartolomeo, il Chisiele e la Volare Matrice, cioè Pino Querciadoro, che avevano due Ford Transit, cioè due Ford, insomma, di cosa, un Transit Blue. Praticamente il Ford Escort è quello lungo grande, tutte e due, sia Giuseppino che Bartolomeo, e avevano questa antenna con un motto che era una cosa allucinante dietro nel parafango posteriore, ed era uno stile, un acciaio inossidabile alto 2,75 metri, tant'è vero che quando si fermavano lo sganciavano, quando camminavano lo tenevano con il piatto agganciato come si faceva allora, no? E usciva lo stesso perché era talmente la resa dell'antenna che anche piegata era una cosa spaventosa. Ma poi quando era una balai che la sganciavano, lasciavano lunga, praticamente tu immaginati, madonna, il vento che si sta mettendo, ragazzi. Immaginati tu 2,75 metri d'antenna, quindi a onda intera, che cosa sparava? Andavano lì lui, Vincenzo, Ernesto, tutti con le macchine la domenica mattina, e si facevano con le gavette al naso, perché a casa non è che potevamo fare tanto. Con le Grand Plane avevo una Standarter, che poi la chiamavo Bastandarter perché era talmente brutta, sembrava un ragno di quelli che però erano le antenne di allora e che quindi avevano una resa abbastanza buona, insomma, rispetto a quelle antenne che c'erano, andavano bene quelle. Oggi l'antenna di uso superiore per noi è sempre la Mantova, una grandissima antenna, un'antenna che resiste moltissimo e che ha una resa molto molto elevata, però a quei tempi già non è che c'era nulla, quindi ci arrangiavamo come potevamo, dai, chi aveva la Grand Play, chi aveva queste, allora c'era la Super Regibus che era simile alla Mantova ma molto più fina, la BA27L, insomma c'erano tante antenne che però con la Mantova oggi come oggi non hanno niente a che fare. A te Gianni, poi rilancia Alessandro, vediamo se ha ripreso. Sono no, già sono controllo fuori. Ok, mi sembra che sia un break. Avanti break, avanti break, dice K e poi... Vabbè, questo non, forse non ci sente, o siamo noi che lo sentiamo lui. Vabbè, e così è. Allora eravamo più ragazzi, avevamo più, diciamo, più voglia di fare certe cose, ma poi naturalmente col tempo le passioni anche, non è che passano, però a un certo momento, diciamo che ci calmiamo un po'. Prima si facevano tanti suggerimenti, anch'io lavoravo molto in elettronica, prima facevo tante di quelle costruzioni che non finiva mai. Facevo, montavo, ricostruivo, magari usando anche sempre pezzi che avevo usato prima, perché smontavo e poi e così via. Tipo ricevitore a reazione, ricevitore ad onde corte, microfoni, eccetera, eccetera. Insomma, si passava il tempo così. E perché no? Io mi ricordo una volta, avevo fatto anche la radiocamera, che poi tra l'altro ce l'ho ancora su in Massada, e il giorno eravamo di domenica sera, c'erano le partite di calcio, c'erano, e io avevo le cuffie, una cuffia da 2000 ohm, ci vuole per la radiocamera, se no non ce la fa, e poi senza alimentazione, senza batterie, senza corrente elettrica, senza niente. E c'era un giorno, c'era a casa, c'era una signora, stavano parlando, stavano con mia moglie, e a un certo momento io stavo ascoltando una partita, non c'era corrente elettrica, la radio non la potevo accendere, però io avevo quella senza corrente, dunque sentivo la partita. A un certo momento la signora, tu hai vinto, io il risultato, questa donna mi ha guardato come tutti i marito acque, e mia moglie non guarda che sta ascoltando la partita, come sta ascoltando la partita, se non c'è corrente, ma la radio una cosa che ha costruito lui e la sente lo stesso, la partita senza il programma in radio, senza bisogno di corrente elettrica, eccetera. Aspetta, questo qui è ingegnoso, ha pensato, capito, c'erano qua. E se andavo avanti così, perché no? Erano passioni che poi, ripeto, col tempo, un po' perché le ha presecate per un certo periodo, un po' perché non ne ha più voglia, e allora magari si abbandonano, poi ogni tanto in tanto diciamo che già lo prendo in mano il saldatore, capito? Avanti di qua. Secondo, lasciamo al telefono. Ok, avanti Gianni. Ok, mi prendo io, non so se ok, ma me lo vicino qui. Ok, tutti questi esperimenti su terre per andare meglio, per incontrare quale contrabbia, l'amico GP, ecco, io mi ho costruito questo, io mi ho fatto quest'altro, niente, noi il più che sentevamo era sempre il microfono, avere il microfono buono. Non si andava oltre, e poi addirittura ci aveva già anche il rollo dentro un ministero. Ok già, beh, finalmente ce ne facevano tanti. Tu pensa che quando io abitavo in un'altra casa, anche con l'antenna della televisione, avevo fatto tanti esperimenti, avevo il palo attaccato alla ringhiera, no? Perché c'era sì l'antenna centralizzata nel palazzo dove abitavo, però era un'antenna molto ma molto scarsa, allora mi ero installato un'antenna personale io sulla ringhiera, col palo lungo, un palo da 4 metri che arrivava praticamente a livello del tetto. Io abitavo al primo piano, era una palazzina di due piani, piano terra e primo piano, e lì avevo addirittura segnato tutte le posizioni, cioè prendo le staffe, anziché stringere forti, l'avevo lasciato in modo che lo potevo girare a mano, no? E mi giravo l'antenna, mi giravo soprattutto verso l'isola d'Elba, quella zona lì, e riuscivo a captare intanto Tele Monte Carlo, quando allora qui Tele Monte Carlo era un sogno, Telecioco quando Telecioco era un sogno, Rai 3 Toscana quando nessuno qui l'ha mai preso, a Sassari non c'era motivo nemmeno di prenderlo, come il Rai 3 dell'Italia, della Sardegna, no? e io prendevo rete Toscana, perché? Perché giravo il tubo, mettevo quel segno che mi hanno fatto nel tubo, tra la staffa e il tubo, e io riuscivo a prendere i programmi tranquillamente, anche da fuori. Evidentemente c'era una buona canalizzazione fra me e soprattutto nella zona dell'Isola, che riuscivo a captare questi segnali e andavo avanti così, capito già? Un attimo. Soltanto qui in paese il primo a ricevere telefono Speralda, quando era per uscita a Spicchio, a Spicchio avevo comprato l'antenna, avevo comprato proprio a quella stretta, e poi ho verificato la c'era già il muro, messaggerie elettroniche, avevo questa roba, ero già visto e avevo messo, per mia sorella ho detto guarda che io l'amplificatore tiro quando si vede, stavo con cacciapiti appena appena, ma c'è così uno specchio, il primo che l'ho ricevuto per me, se gli obiettivi e delle milioni antenne sue, che le montano, però non me, non le ho mai riuscito giù, a entrare, come dire, però se lei porta la Speranza, guarda, uno specchio, allora tutta la gente è iniziato a fornirsi le antenne, come si chiama, dei amplificatori come il mio e un po'. Diciamo che era ottimo come comunicazione, però diciamo anche gli altri poi avevano migliorato, allora tornando dopo un anno avevamo messo col comune il ripetitore, era ottimo, e allora all'epoca quelle cose lì, canale 48 era nato e visionina e tutte queste cose, però è il primo, come si chiama, la telecosta smeralda che sono riuscito a ricevere. Avanti un attimo. Avanti un attimo. Giulio. Dimmi, avanti. Capo, no, siccome stavo soltanto, ho toccato qualcosa, non mi ascolti? Ti ascolto benissimo, una radio addirittura troppo forte, si è abbassata la penna e forse è più chiara. Ok, vedi un po' adesso? Sì, sì, così va meglio, sì, senz'altro, va bene così, sa. Ok, no, spostando, toccato qualcosa, non devo essere sicuro. Claudio? Già il telefono Claudio, già riprende, sarà un po'. Capito, sa, cosa stai facendo? Regolazioni all'apparecchio? No, neanche regolazioni, sto, diciamo, modificando tutta la base qua, e siccome ho modificato la massa terra, e niente, quindi spostando qui ho portato qualcosa, e volevo essere certo, diciamo, se stanno andando tutto ok. Ho capito, sa. Con me è la massa terra, perché cosa avevi? Alternata avevi per caso? Positivo. Positivo, ha fatto una linea, diciamo, tutta particolare, tutta sua, dal paletto, diciamo, e l'ho portata direttamente a lui. E però volevo portare tornato, però strano. Ho capito, sì, no, ma già è importante, la massa terra è importante, a volte noi non ce ne curiamo, però devo dire che è importante, ma finché uno non trova, diciamo così, non sente interferenze va anche bene, però se ci sono delle linee elettriche o qualcosa del genere è importantissima la massa terra, questo non ci sono dubbi, meglio così, là. Vediamo se riprende che Claudio, lo prendi? Non c'è come, sto terminando il telefono, non c'è come, sono lì. Ok, d'accordo qua. Le prendi Gianni? Io qui sto con un braccio Giumi, sto pulendo il corso, altrimenti ci sto pulendo. Sto pulendo perché l'ho messo qui dove c'ho questa roba tutta. Stavo dicendo, le devo cambiare le valvole, gira, perché come modulazione di voce, segnale già, fa quello come fa la batteria, però vorranno cambiate le valvole. Ho capito. Le valvole purtroppo si esauriscono. Sono dei componenti elettronici straordinari, però hanno una durata limitata, perché è limitata, tutto è dovuto naturalmente, è subordinato all'usaggio che uno fa dell'apparecchiatura, è chiaro, questo sì, però voglio dire, la valvola praticamente è una lampadina e dopo quel certo numero di ore di illuminazione incomincia a calare l'illuminazione, anche se funziona la deve sostituire, così è la valvola. Dunque, no, va bene così, dai. Ecco, quello è un vantaggio, i resistono hanno un vantaggio, che vanno sempre. O si bruciano e non si sente più niente, oppure vanno sempre bene alla grande, salvo naturalmente in tubi tipo surriscaldamenti e cose varie, questi ovvio, no? Allora sono anomalie quelle che esistono nell'apparecchiatura che vanno senz'altro eliminati. Avanti, Sandro. Ok, dai, positivo, va bene, dai, vi lascio perché devo ultimare qui tutta che ci ho tutto messo sopra. Ok, dai, ci sentiamo più avanti. Ok, d'accordo, sa, prima dimmi se mi senti bene in radio, oppure fai fatica ad ascoltarmi, non so, dimmelo tu, il microfono non ce l'ho molto alto, diciamo che è all'incirca a metà. No, perfetto. Sentiamo 9:10, una radio di 5, bella brillante. Ok, e altrettanto ti dico, sa, alla grande, non ci sono problemi. Bene, va bene, siamo qua, sa, se hai voi già siamo qua, io e Gianni, intanto fanno molto, rientrerà anche Claudio. Avanti Gianni. Ok, è così, è lungo perché ho schiacciato la portante, sale, diciamo, oltre i 5 fatti, però sicuramente c'è qualche cosa sulla valvola audio che quindi quando se ne cambio completamente tutte che è un impianto di radio, quella c'è dello spesso, se no altrimenti non ce ne ovvero perché uno che ce l'ho è abituato di conta sempre da lasciarlo fermo e me ne avrò comprato un altro giù perché se ero molto appassionato del contatto che dice qui e questo non lo voglio far decadere. Claudio, ci sei? Ti arrivo. Ok, riprendo di nuovo io, intanto Claudio sta per arrivare. Stavo dicendo, sì, già, indubbiamente le valvole, ripeto, sono una componente molto, ma molto buona. Questo non ci sono dubbi, ma quando sono nuove, chiaramente, poi quando cominciano ad esaurirsi. Però il difetto più grosso, sai qual è Gianni, delle valvole? Che hanno un certo costo, e quello comincia a essere un pochino pesante, perché secondo le valvole che ci sono, costano parecchi soldi, veramente. Mentre invece il transistor o che so io, l'integrato è tutto un altro discorso, non ti dà questi problemi che ti danno le valvole. Però devo dire, se vogliamo adesso noi parliamo per un momentino di una radio normalissima, una radio ricevitore normalissima, se noi ascoltiamo, io parlo attualmente di apparecchiature buone e pago, se ascoltiamo una apparecchiatura a valvole di buona classe, di classe A, è un apparecchio a transito sempre di classe A, secondo me come emissione microfonica, come emissione di radio è senz'altro superiore a quella valvole, perlomeno io penso che sia sempre stato così e lo sarà sempre. Capito? Mentre invece magari per avere una apparecchiatura buona da valvole devi avere, che so io, un apparecchio molto grande di dimensioni, mentre invece con un apparecchio a transistor è una cosa molto compatta, le prestazioni sono buonissime lo stesso, questo non ci sono dubbi, però se io parlo solo di apparecchio, se poi incominciamo a mettere equalizzatori e cose varie, allora un altro discorso, io parlo solo di ricevitore a valvole e ricevitore a transistor, per me quella valvole come emissione, come timbrica di radio è più bella, più orecchiabile, diciamo. Ma così perché quando ascoltavo la modulazione ascoltata su quella a transistor, la differenza era notevole, infatti quando accendevo il contact rimbombava tutta la casa, è proprio potente la modulazione, solo che poi non è che lo sta attaccato a lui, devi scendere. capito, no, ma se ne hai altro che nel cambio, se ne trovo, e con il loro sistema lo accendo ogni tanto e ci modulo pure, riprendi i crani, esatto. Riprendo di nuovo io, evidentemente è qua impegnato. Sì, ma è così, ho già, indubbiamente, perché io ad esempio radio ne ho qui, radio antiche ne ho in tutto 6 a casa, ti puoi immaginare, ne ho addirittura 3, quelle che hanno il coperchio, che c'è anche il giradischi, si apre il coperchio e sopra c'è il giradischi, però quando li metto in funzione hanno una prestazione straordinaria, tutte ristrutturate, erano tutte cose che avevo io avuto praticamente tramite regali anche di un mio amico che c'era lì vicino a me come radiotecnico, che poi tra l'altro non è più entrato a baracchino, anche lui parla a baracchino, e tante altre cose, le avevo tutte ristrutturate proprio alla grande. Tu pensa che ne ho uno anche che c'era una valvola finale che era, la sigla era 50 L, comunque una valvola che era alimentata a 50 volt, quella lì. E siccome non si era trovata quella valvola, non l'avevo messo una valvola a 6 volt facendo una trasformazione nell'autotrasformatore, perché con l'apparecchio lì ha un autotrasformatore, cioè un trasformatore che ha diverse tensioni, no? Facendo una modifica lì, e beh, sono riuscito a rimettere a posto la radio, sono riuscito a mettere a posto, poi ci mancava la radiosatrice, ci mancava, quella appunto non c'era proprio, e al posto della valvola ci ho messo 2 diodi, ci ho messo infilati nella zoccolatura, nel portavalvole, così sono riuscito a ripristinare la radio proprio alla grande, non, e funziona che è una meraviglia, ha una timbrica meravigliosa quella radio lì, guarda. Solo che io ce li ho sempre conservati, non mi sono mai preso la briga di chiuderli e metterli in corso, ma intanto l'accendo così tanto per far saldare il filtro di ingresso, cioè il condensatore elettrolitico, perché se quelli li lasci a lungo senza usare, cosa succede? Succede che quando li alimenti, cioè quando li accendi, ti si possono spaccare, anche se so benissimo come si deve fare per poterli salvaguardare. Tu li devi alimentare anziché direttamente a 220, li alimenti con una tensione bassa, li alimenti incominciando, che so io, 100 volt, 110 volt e così via, no? Con un trasformatore, hanno la caratteristica che i condensatori elettrolitici si adeguano e si ripristinano da soli, capito? Già. C'è tutta una serie di nozioni tecniche, più che altro sono, eccetera eccetera, che naturalmente non senza presunzione, ma che non tutti sanno queste cose qua. Riprendi già. Infatti è quello proprio, perché si scaricano e tendono poi a non fare funzionare gli altri componenti come si deve, hai capito? Quindi meglio la roba tenerla sempre alimentata, sempre sotto controllo, almeno questi con le valvole, poi gli altri già non richiedono molta manutenzione. Claudio, ci sei? Sì, eccomi qua. Ho cambiato radio, sto andando con la Zodiac B5024 base, Giulio, quello che hai visto. Nel frattempo voi stavate parlando, ho terminato il telefono e ho inserito il termine più 3. Ok, poi mi dite come sto andando, i watt sono circa 70, perché c'è l'amplificatorino che mi serve tutti i, praticamente i baracchini, anche lì ho un sistema di commutazione alla grande. Posso commutare sia l'antenna che anche l'amplificatorino da 70-80 watt su tutti i baracchini. Sempre senza cavi per terra. A te Giulio, avanti, dimmi se mi ascolti bene. Che altro che se ti ascolto bene, anche più forte di prima ti ascolto come radio. Vedi, la caratteristica di questi microfoni, il termine più 3 o qua, è proprio quella, la grande brillantezza che hanno, nonostante il volume secondo me sia alto o basso, la, diciamo che la modulazione è sempre bella chiara, può essere altissima quanto vuoi, anche al massimo, però le parole vengono scandite proprio belle, chiare, pulite, senza nessun problema. E ecco qual è la differenza tra il Tannel più 3 e gli altri microfoni o qua. Vediamo un po' come la pensa Gianni. Gianni, vai! Sì, infatti quello, i Tannel poi sono, diciamo, i migliori microfoni che c'erano all'epoca. Quando si parlava di microfono si parlava di Tannel, però c'erano anche gli Asati che, diciamo, erano degli ottimi microfoni. Io ne ho procurato uno, per conto non ho marchiato pace, ma è a tanti, che lo montava il pace 2000, è bello, c'è una capsula dentro, non è differente. E così, stavamo parlando, del contact, ma che passo di radio, è possibile che sia dalla valvola, perché il segnale, il schiaccio è da 2005. Sì, c'è senza ombra di dubbio, è il constat, ha una valvola per l'auto, praticamente controllo del mic, quindi se quella valvola è esaurita, non ha più il 100% della sua potenza, chiaramente sul modulatore non spinge, tutti i valvolari sono così, c'hanno le valvole per poter far sì che l'oscillatore di modulazione lavori con quella potenza della valvola. Sicuramente quella, guarda, quelle lì mi pare che siano le 6JB6, dovrebbe avere qualcosa ancora a fusarlo, perché San Giovanni a me mi disse proprio da poco se avevo necessità di valvole, ne aveva un po' proprio in esaurimento, che poi non ne ha più ordinato, però aveva qualcosa proprio dei valvolari, delle sigle che le avevo dato io, di quelle degli amplificatori che si usavano un tempo, le 509, le 519, ma soprattutto quelle delle radio proprio che vanno in trasmissione, valvolari, aveva un po' di stoccaggio in magazzino e mi disse proprio se mi servivano di farglielo sapere. Quelle delle Constat 25B, del 35B, del Tenco 46T sono le 6JB6, sono delle valvole fini, un pochino alte, ma fini, che vanno messe sul circuito proprio di trasmissione della radio, mentre le altre sono leggermente più grosse, quelle della tensione della radio. Ok, perfetto. No, vabbè, io ogni tanto li uso i baracchini, se no altrimenti cosa l'ho fatta fare questa scrivania? Non è che l'ho fatta lì per averli in mezzo ai piedi. Io ho un sistema di commutazione sui baracchini, c'ho la commutazione anche perché è alimentato dal PS50 a linea retto, e quindi commuto sia l'alimentazione sul lineare sia la commutazione sull'antenna ai baracchini, e mi fa lavorare sia con lineare che devo solo invertire il microfono, perché il Tannel più 3 è su 3 radio, mentre il Sadelta è sugli altri baracchini, giù li ha visti, l'altro Tannel più 3, l'M500 e gli altri sono tutti su altre radio, però questa è una commutazione fissa, quindi devo solo commutare tra il Zodiac e la Fayette, tutto qua. Ok, non so se c'è ancora Sandro. Ehi, capo. Ok, qua, no, stavo verificando una cosa, perché sto fatto, non so qualcosa, volevo essere sicuro che è tutto ok. No, perfetto, stai ascoltando il maracchino, sei perfettissimo, segnale abbastanza alto, ottimo strumento questo del Zodiac, che è un bello strumento, grande, e sei più o meno quante l'HF, leggermente più basso, ma non fare molto affidamento perché il maracchino ha una taratura diversa, quindi comunque segnale 9.15, la radio è perfetta, senza problemi, senza disturbi, ottimo per la truppa. Avanti Giulio. Ok. Sì, in effetti è così, ho già oppure la finale, adesso quella che ha detto la sigla che ha detto Claudio della valvola dovrebbe essere quella, però dovrebbe essere anche la EL84, Gianni, la finale, la valvola finale del Constat 25B, io ce l'ho, 25B, dunque è così, la mia ha la valvola finale EL84, sì, che è così, quell'altra dovrebbe essere la corrispondente comunque di quella sigla che ha detto, la 6BQ6, o BQ5, non lo so di preciso, ma comunque siamo lì, perché tu sai benissimo ogni valvola ha la sua corrispondente, di conseguenza una vale l'altra, dai, e non diciamo che va bene lo stesso, va bene. Perché in effetti se il volto sono quella là e se il volto quella, perché dove, quando la sigla inizia con la E delle valvole significa che l'alimentazione di quella valvola è a 6 volt, capito? Oh già, questo è anche un altro fatto tecnico delle valvole, eccetera eccetera. Va bene così, dai, riprendi già. Canali, ne ho uno addirittura tre canali, e a voi le baracchine, cos'è che Voce che non me ne ricordo, figurati un po'. Ah, poi ho il 789 della Sommercamp, quello lì mi fa 4.000 gradi, ma un poco, nel senso che vado avanti a erse, capito? Che pertanto, per fare un esempio, 27.075, no, posso fare 27.076, 77 e così via, no? E a voglia. Ce n'è, capito, Cla? Vabbè, dai, Sandro, aiuto. Vai Gianni, vai. Ok. Stavo chiedendo, Cla, la lunghezza dello filo per il 144, quanto è? La lunghezza dell'antenna, stai dicendo tu? No, dello filo, dello filo praticamente, quanto è 70 centimetri, quanto è? E guarda, io ne ho diverse, ne ho una addirittura che mi pare che sia, ora te la posso anche misurare per non sbagliare. Aspetta un secondo, faccio un pieno di occhiali che devo togliere da qua dentro, perché allora guarda, questa che ho io è base tutto 38 centimetri. 38 cm questa che io, ed è V e U, ed è la B10M della Comet. B10M della Comet. Poi ho la NR770 della Diamond, che quella lì è 70 cm. No, per 144. Sì, VHF, UHF, quindi per 144 e per 70 cm, quindi le UHF, V e U. Dipende, non tutte sono 70, questa che ho io addirittura è 35 centimetri ed è una VEU, praticamente che cosa c'ha? Ha la base V che è di, guarda te la misuro ancora così te la ho precisa perché è in due, è spiralata questa, allora la base delle V è dal raccordo 7 centimetri, mentre quella, cioè quella della U è 7 centimetri, quindi, mentre quella della V è 10 centimetri, capito? Sì, io sto parlando, capito, come quelle che montavano in macchina, siccome io ho una vecchia America Flegra e volevo modificarla per farla con altri stili per il 144. Sì, la misura di accordo è dai 35 ai 70 centimetri, di quelle un quarto ronda, è attento, un quarto ronda. Poi c'è la 50 avi che è 1,10 m, 1,20 m, 25 m, dipende. Ok, beh, praticamente sono 3,5 e quindi c'è un quarto d'onda, per avere la, diciamo, mezza onda devo fare la 70, confermi? Esatto. Perfetto, no, perché c'ho questa carcassa che è tutta l'antenna, la mini lampade, praticamente io non faccio altro che cambiare le stili e metto gli stili di quella lunghezza, quello lì che voglio fare io, li prendi Giulio? Ok, già, beh sì, e se non lo fai, no, 300.000 diviso 144 e il risultato è la lunghezza d'onda, mezz'onda dell'antenna, 72 centimetri mi sembra che sono, comunque mezz'onda, una cosa del genere per 144, ma comunque fai l'operazione e lo sai. E stavo dicendo, ma generalmente ti conviene una X30 o della Diamond, ti conviene, almeno sei sicuro, ti va in volo in U, ti va. Senza molte pretese, però una X30 diciamo che funziona discretamente, io ce l'ho qua, una X30, la uso alle volte per ascoltare, anche se solitamente uso il gommino dell'UHF che ho, ma va bene comunque, va bene, non ci sono problemi, ho già, bene.